Unità 2. Per capire. Traccia 11. Senta, scusi, vorrei sapere se la stanza ha il bagno. Sì, certo, tutte le stanze hanno il bagno in camera. Benissimo. È possibile prenotare una camera con vista, magari con un balcone? Purtroppo non abbiamo stanze con balcone, però posso darle una stanza da cui si vede l'arena. Ah, va bene. Allora prenoto una stanza doppia.